Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori a questo appuntamento dedicato ai libri di economia. Il primo libro di cui parliamo questa sera è un libro di economia, nel senso che ha l'economia sullo sfondo, ma parla soprattutto delle persone. L'autore è Aldo Bonomi. Buonasera Aldo Bonomi. Buonasera a voi. Aldo Bonomi, sociologo, scrittore, editorialista per il Sole 24 Ore, ha scritto insieme a Eugenio Borgna, che è uno psichiatra e un docente, un libro che ha un titolo molto esplicativo ma anche molto provocatorio: Elogio della depressione. Ecco, ma la depressione, per un libro fatto con uno psichiatra, riguarda soprattutto le cose personali o ha qualche riferimento, Bonomi, anche con la depressione generale, con questa crisi economica che ci sta ormai circondando? Sa Fabi, io ci sono arrivato a scrivere questo libro dopo aver indagato la società nei suoi comportamenti collettivi e quindi ovviamente sullo sfondo la dimensione anche dell'economia e della modernizzazione, della globalizzazione, i temi che sono sul piatto anche rispetto alla crisi in atto, per capirci. E quindi dentro questo avevo visto che dentro la società, a fronte dei grandi cambiamenti dovuti ai nuovi spazi economici, alla nuova dimensione dell'economia, al ruolo della finanza, eccetera, era emersa una dimensione di rancore, di paura. Poi, andando a vedere questo, avevo cercato di capire quali erano i comportamenti collettivi che dentro questo grande cambiamento non avevano solo il rancore, la paura e il riserramento come forma di difesa, ma e quindi sono andato a indagare se sotto, diciamo così, la debole protezione dello Stato, che poi si è rivelata in tutta la sua dimensione drammatica, questa debolezza dentro la crisi dell'euro, per capirci, in cui gli Stati-nazione si sono dovuti rapportare, ad esempio, alla BCE o anche a comportamenti che venivano da fuori, adeguarsi rispetto a questo, quindi la debolezza, se sotto la pelle dello Stato c'erano comportamenti della società, dell'economia nel suo complesso che si muovevano e reggevano questo. Quindi è una ricerca di opportunità, in fondo, una ricerca dell'opportunità in una crisi generale, il riscoprire alcuni valori di fondo, alcune possibilità di fare delle nuove relazioni. Ecco, proprio questo, perché poi alla fine nel mio percorso di ricerca, dov'è che ho incontrato Borgna? Quando sono arrivato alla crisi del soggetto, alla crisi della persona, cioè quindi la persona che a un certo punto dentro questo grande marasma eccetera cosa fa? Si deprime, ha un problema di difficoltà. E devo dire che il libro è il suo rovesciamento. Io avrei preferito un titolo ancora più esplicito, nel senso che io nella mia parte dico soprattutto depressi di tutto il mondo unitevi, cioè nel senso che la crisi ci ha messo in una dimensione anche di paura, difficoltà, però a questo punto bisogna partire e rovesciare la depressione nel suo contrario, che poi è quello che mi ha insegnato Borgna quando dice che il vero problema è capire che siamo tutti in una comunità di destino, ma non di comunità di destino di sangue, di suolo e di appartenenze nazionali, ma una comunità di destino che dobbiamo riconoscere nell'altro la sofferenza e le difficoltà. Ecco, quando in fondo il libro si conclude proprio con questo proclama: depressi tutto il mondo unitevi, ma ricordando anche di attuare quello che sono i principi tradizionali che la rivoluzione francese ci ha lasciato: libertà, uguaglianza, ma soprattutto fraternità. Esatto, il libro dice che siamo arrivati a un ciclo, a mio parere, ad esempio la crisi, che è una crisi anche di epoche, è una crisi epocale dal punto di vista dei suoi contenuti, cambia, nulla sarà più come prima, che può sembrare una frase che mette paura, però insomma cambia, perché dovremo cercare anche nuovi modelli di sviluppo, nuovi tipi di relazioni industriali, nuovi tipi di... E allora, partendo da qui, il vero problema è che si parte dalla depressione e si rovescia in questo, tenendo conto che le due polarità, libertà, uguaglianza, sono state esperite tutte, no? È il vero problema, bisogna ripartire dalla terza parola chiave della rivoluzione francese, che è fraternità. Quando si dice che il problema è riconoscersi nella comunità di destino e che si incomincia a ricostruire valore di legame tra coloro che lavorano, tra coloro che fanno economia, tra coloro che fanno società, bisogna ricominciare da quei tessuti di fraternità. La fraternità è stata molto misconosciuta in questo. Il Novecento è il secolo della libertà ed è il secolo degli interessi, insomma, per essere chiari, dell'uguaglianza. Costanza. Questo è stato il Novecento, ovviamente il nuovo secolo, che si presenta anche con un quadro in cui tutto cambia, ripropone la fratellanza, la fraternità, il riconoscere l'altro e partire da questo come un tema fondamentale. Ecco, in fondo si parte dalla depressione per avere delle basi anche solide, concrete, realistiche, per guardare un po' con ottimismo, con possibilità di uscire da questa crisi, certamente con dei metodi nuovi, ma che riscoprono poi i valori fondamentali della persona. Grazie al Bonomi, autore con Eugenio Borgna del libro Elogio della Depressione, edito da Einaudi. Sono 140 pagine, un dialogo tra i due che si legge molto facilmente, molto volentieri, con molto interesse. Costa solo 10 euro, è un investimento ben speso per uscire dalla depressione. Grazie e al prossimo appuntamento. Il secondo ospite di questa sera è Luca Doninelli. Buonasera Doninelli. Buonasera. Luca Doninelli è curatore di una serie di libri di cui è uscito il secondo libro. Il primo libro si intitolava Milano è una cozza, il secondo che è uscito adesso è sempre dedicato a Milano, infatti la collana si chiama Le nuove meraviglie di Milano e si chiama Michetta addio. Luca Doninelli, un poeta, scrittore, ha raccolto in questo libro alcuni racconti. Secondo quale filologico, Doninelli? Il filologico è quello di riuscire a dare complessivamente un ritratto della città in quest'epoca in cui le trasformazioni divaricano, allontanano la città reale da quella mentale, la città che c'è intorno a noi e quella che abbiamo in testa. E allora si tratta di seguire di volta in volta itinerari, passioni, ferite, perché poi la città per ciascun abitante insomma costituisce anche una ferita, qualcosa che non va, qualcosa che ti fa problema, che ti turba, raccogliendole intorno a alcune tematiche, sia ritratti magari insoliti, sia problemi, situazioni strane. Faccio un esempio, non so, una signora anziana di via Vincenzo Monti che non vuol vendere il suo vecchio negozio anche se le offrono un sacco di soldi, un negozio che non le frutta niente, ecco, perché questa fa così? Oppure non so, perché in treno ci si mette di più andare a Bergamo che andare a Brescia? Sì, questa è una storia molto interessante, peraltro, che ha radici anche in scelte del passato che poi si riflettono anche sulle condizioni dei pendolari e quindi sulla vita quotidiana, proprio questa vita quotidiana di tutti i giorni che forse ha fatto perdere, lo sottolinea un po' Salvatore Carruba nella sua prefazione, ha fatto perdere un po' l'identità di Milano. Ma questa richiama allora la Michetta, per chi ci sente da fuori Milano, è la tipica forma di pane milanese. Ecco, questo richiamo a una tradizione antica è forse una volontà di tornare indietro o di guardare in avanti? No, assolutamente no, si chiama Michetta addio nel senso che quello ormai la Michetta è difficile trovare nelle panetterie e nasceva dall'osservazione che insomma le panetterie sono un po' come la società in cui viviamo. Nell'epoca industriale, nella Milano industriale, c'erano tre classi sociali: i padroni, diciamo, i lavoratori dipendenti, i liberi professionisti, e in panetteria trovavi tre tipi di pane: il pane all'olio, il pane alla Michetta, il pane mantovano, modenese, che si vuole dirsi voglia. Adesso che siamo in una società completamente frammentata, con una quantità di classi, di situazioni, dove la domanda e l'offerta si moltiplicano rincorrendosi continuamente, mi stupisco ancora che a Milano non esista un bar per mancini, cioè dove vanno solo i mancini, però vedrà che prima o poi ci sarà anche quello. Quindi una città dove la gente, dove quella mescolanza che io trovo ancora per esempio a Marsiglia non c'è più, no? Per cui tu dici, ma la gente, no, la gente Corso Vittorio Emanuele, no, c'è gente di un certo tipo in un punto di Corso Vittorio Emanuele, gente di un altro, cioè la gente non si mescola. Allora io cercavo, e anche nelle panetterie ci sono 100.000 tipi di pane e la Michetta non c'è più. Ecco, quindi andare a cogliere anche il nuovo, ma senza dimenticarsi di quelli che sono i valori in fondo, sì, anche di chi li ha guardando in faccia gli altri. Sì, anche perché le Michette continuano a farle. Io ho saputo appunto che c'è un sacco di panettieri, tra l'altro anche musulmani, che non so, la mattina prima di fare il pane per la gente ricca, quindi il pane sofisticato, prelibato, fa quintali di Michette che porta agli ospedali, all'Opera San Francesco, alle suore del Nocetum, a quelle di Via Ponzio. Per cui in realtà esiste anche un sottofondo di Milano dove la sua tradizione, la sua identità non si esprimono più col sciure, la sciura, il formaggiata, cioè tutti questi, che poi non è mai stata così Milano, cioè la nostalgia della vecchia Milano è una fola, dove invece la vera tradizione di Milano è la sua inquietudine fattiva, come la chiamo io, insieme a qualche altro amico, cioè questo suo bisogno di ideare e fare. Ecco, in questo libro c'è questa Milano, ci sono questi racconti, ci sono queste persone, questi personaggi, questi luoghi, in fondo è attraverso questi racconti anche una guida, non tanto una guida turistica, ma una guida turistica per i milanesi che vogliono capire che cosa è Milano adesso e quali possono essere i nuovi obiettivi di questa città che ha in fondo grandi responsabilità. Certo, certo, una guida che però nello stesso tempo, come dire, questi sono i miei racconti e la guida vuol dire fatti anche tu il tuo racconto, ecco. E quindi affinché ciascuno di noi si faccia il suo racconto. Su questa ipotesi lanciamo forse l'ipotesi di un terzo libro dedicato a Milano. Luca Doninelli, grazie di essere stato con noi questa sera. Michetta Addio, Milano, storia di una città madre, edito da Guerini Associati. Sono 219 pagine per 14,50 euro. Tutto quello che volete sapere sulla Milano di oggi in questo libro. Michetta Addio, ve lo ricordo. Grazie a Stefania Tagliaferri in redazione e a Fabio Cantadori in regia. L'appuntamento con i Libri di Economia è per sabato prossimo.